2024 di Enrico Pagliarini. Questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Benvenuti o bentornati. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica 2024 2024 e radio24.it. Altre coordinate per raggiungermi sono Twitter e Facebook. Questa sera parleremo di Netflix. Però parleremo anche di una tecnologia, un sistema, un'idea per risolvere una serie di problemi al commercio elettronico. Tra l'altro questa settimana sono stati diffusi alcuni dati sempre interessanti sull'e-commerce italiano, tra poco ne ascolteremo in breve all'interno delle nostre digital news, ma uno dei problemi è l'ultimo miglio. Come risolvo alcuni dei problemi dell'ultimo miglio? Ad esempio, quando mi arriva la merce? Punto interrogativo. Molto spesso non si sa. Allora parleremo di un'idea e abbiamo, su suggerimento di Gianfranco Giardina, che questa sera in questa puntata sarà nostro ospite, abbiamo intitolato la nostra puntata Tutto il mondo quando vuoi, sia con il video on demand ma anche con l'e-commerce on demand. A proposito di video on demand, iniziamo con la voce di sicuramente il protagonista, se non uno dei più importanti protagonisti di questa settimana in Italia. On the internet, Italy is very open. Questa è la voce di Reed Hastings, che è il fondatore di Netflix. Era a Milano questa settimana per presentare l'arrivo di questa piattaforma di video in streaming online su abbonamento anche nel nostro paese. L'ho intervistato Andrea Biondi e Hastings dice: su internet l'Italia è un paese molto aperto, c'è molta concorrenza per i consumatori che vogliono provare Netflix. The government has been strong on broadband and increasing internet speeds in Italy. Il governo ha fatto molto per aumentare la velocità di internet, perché questo aiuta tutta l'economia, Netflix, YouTube e tutte le società internet che fanno TV via internet. Beh, diciamo che Hastings è molto diplomatico, o non è stato bene informato dai suoi, perché insomma dire che il governo ha fatto molto per aumentare la velocità di internet è un po' troppo buono. Sicuramente è vero che sono stati sbloccati 2,2 miliardi, ma non si sa quando verranno fatti i bandi per erogare ai privati, alle aziende che faranno investimenti questi soldi, e nemmeno come verranno fatti questi bandi, cosa molto importante per evitare che tutte le risorse finiscano ad un unico operatore, facendo male alla competizione su internet. Ma torniamo al video di Netflix. Che cosa pensa Hastings dei competitor italiani? Andrea Biondi ha chiesto: non ha paura della loro forza? A little bit of fear is a good thing. E Hastings ha risposto dicendo: beh, un po' di paura è positiva. In Gran Bretagna, dove siamo da 4 anni, gareggiamo con Sky e anche loro sono cresciuti bene, ma anche noi siamo cresciuti. È come a casa mia in California, io ho sia Netflix che HBO, che è una piattaforma satellitare americana. Se faranno buoni contenuti, Infinity e Sky in Italia avranno successo. So if they do good shows, Sky Online and Infinity, they will see success. Beh, ci dice alcune cose interessanti. Beh, prima di tutto che probabilmente con l'arrivo di queste piattaforme c'è più spazio per tutti, aumenterà il consumo di contenuti video, ci saranno più opportunità, ma quello dei contenuti originali è un ingrediente fondamentale per competere online, e anche di questo parleremo in questa puntata di 2024 tra poco con Gianfranco Giardina. Adesso alcune delle notizie della settimana in breve condensate nelle nostre digital news. Digital news. La prima notizia riguarda il commercio elettronico. Secondo i nuovi dati pubblicati da Netcom e l'osservatorio e-commerce del Politecnico di Milano, le vendite via internet crescono del 16% rispetto allo scorso anno e raggiungono un giro d'affari di 16,6 miliardi di euro. Vale il 4% di tutto il commercio italiano. Siamo ancora a livelli molto bassi rispetto ad altri paesi, comunque stiamo crescendo. Gli italiani che almeno una volta nella vita hanno comprato online sono 21 milioni, ma coloro che acquistano abitualmente su internet sono appena 11 milioni, ma generano da soli il 90% degli acquisti. Digital News. Nel complesso meccanismo che dovrebbe aumentare la quantità la qualità e la capacità delle connessioni ad internet in banda larga. Un importante tassello è il progetto di Enel, che nei prossimi anni dovrà collegare in fibra ottica tutti i contatori elettrici. Molte di queste tratte potrebbero essere messe a disposizione degli operatori di telecomunicazioni per portare servizi a banda larga. Visto che si fa l'infrastruttura, Enel potrebbe fare l'operatore neutrale per fare passare tutti gli altri. Il progetto di Enel dovrebbe essere pronto per metà novembre. Apple ha annunciato di aver raggiunto 6,5 milioni di utenti paganti al servizio Apple Music, servizio di streaming di musica online, ed è così diventato il secondo player del mercato dopo Spotify, che di milioni di utenti ne ha 20, Deezer 6,3 milioni, Pandora 3,9 milioni, Rhapsody 3 milioni e Tidal appena 1 milione. Tidal lo vedo male, ci sono voci che dicono che potrebbe essere acquisito, voci che dicono ad esempio che Samsung potrebbe acquisirlo, però vedremo. YouTube ha lanciato in Italia una offerta pubblicitaria per le aziende che vogliono investire nel cosiddetto prime time, la prima serata, potremmo dirla, nel vecchio mondo della TV. Ma che cos'è il prime time su una piattaforma online on demand? Una serie di video fra i più visti, e questa è un'offerta che va a competere con il mondo della TV tradizionale. Ma sempre questa settimana, per il momento solo negli Stati Uniti, è stato lanciato un servizio che va all'opposto. Se da un lato c'è la pubblicità che finanzia tutto YouTube, che non fa tantissimi soldi, e diciamo che l'equilibrio finanziario è molto molto fragile, allora nel frattempo è stato lanciato YouTube Red, $10 al mese per non vedere la pubblicità, per il momento solo negli Stati Uniti. Allora, abbiamo detto che arriva Netflix in Italia, e forse non è un caso che Mediaset si sia di fatto arresa e ha fatto un accordo con Google per collaborazioni future. Vedremo quali collaborazioni. Mediaset aveva fatto causa a YouTube accusandola di non avere fatto nulla per eliminare più di 60.000 video di programmi Mediaset che erano finiti online perché tagliati e messi sulla piattaforma dagli utenti. Mediaset aveva appunto denunciato YouTube, però a questo punto è stato fatto un accordo. Un'ultima notizia riguarda un altro importante passo nel consolidamento dell'industria IT. Il più grande produttore mondiale di hard disk, l'americana Western Digital, acquisirà SanDisk, che è un produttore sempre americano specializzato in memorie flash. Valore dell'operazione 19 miliardi di dollari. Adesso noi proseguiamo, parliamo di Netflix, che cos'è, come funziona, quali sono le caratteristiche principali, con Gianfranco Giardina, che è il direttore del magazine digitale di Day.it. Questa è un'intervista che abbiamo realizzato e registrato durante SMAU. Questa settimana siamo stati anche noi a SMAU, abbiamo realizzato tra l'altro ieri una puntata speciale, quindi sul nostro sito internet trovate una puntata speciale dedicata a SMAU, in modo particolare al sistema startup, che è un mondo molto interessante sul quale si impegna molto SMAU. E quindi noi nel nostro studio esterno abbiamo fatto questa chiacchierata con Gianfranco Giardina, partendo proprio dall'ABC di Netflix arrivato questa settimana in Italia. Tradotto lo descriviamo che paghiamo un canone mensile, tra l'altro disattivabile quando si vuole, quindi non ci sono vincoli né annuali, niente che assomigli, tanto per intenderci, agli abbonamenti di Sky o Mediaset, quindi è solo mensile, disattivabile in qualsiasi momento, e pagando questo canone vediamo quanto vogliamo o quante volte vogliamo tutti i contenuti che sono nel catalogo di Netflix. Tutto ciò in streaming, cioè via internet, su qualsiasi device collegato a internet, ovvero sia tutti i PC, Mac, Windows, tablet, tutti praticamente, gli smartphone volendo, anche lo smartphone, anche se non è così agevole vedere magari un video sullo smartphone, ma magari in mobilità, facendo commuting sui mezzi pubblici si può usare anche questa modalità, e sulla stragrande maggioranza dei TV, Smart TV, quindi sì. TV connessi alla rete, hanno l'app Netflix, oltre che sulle console videogame Xbox. Allora, diciamo subito che stiamo parlando sicuramente di una nuova modalità di vedere contenuti video, film e serie televisive, ma non stiamo parlando di una novità assoluta, perché a me non piace molto quelli che parlando dell'arrivo di Netflix, ne parlano con grandissimo entusiasmo come fosse una novità assoluta. In realtà servizi del genere sono già disponibili da molto tempo anche in Italia. Assolutamente sì, anche perché tutti diciamo, i content provider, i fornitori di contenuti italiani, sapendo che prima o poi Netflix, che c'è già negli Stati Uniti e in altri paesi del mondo da molto tempo, da diversi anni, sapendo che prima o poi sarebbe arrivata anche in Italia, si sono ovviamente attrezzati per tempo e hanno costruito la propria offerta simile alla, diciamo, con la stessa logica di Netflix, che viene chiamata in gergo SVOD, cioè Subscription Video on Demand, cioè quindi video on demand ma in abbonamento sì. E quindi non si paga il singolo contenuto che si vede come servizi, per esempio siamo abituati a Chili, ne cito uno, dove vediamo un film e paghiamo solo per quel film. In questo caso si paga un abbonamento mensile, dicevamo, e si vedono tutti i contenuti nel catalogo. C'è Infinity, Sky Online, anche col catalogo di Sky, anche con i contenuti prodotti di Sky evidentemente in esclusiva, c'è Team Vision, quindi ci sono già altri servizi che fanno a fronte di un abbonamento mensile. Io vedo tutti i video che voglio. Stanno uscendo anche degli altri, cioè è stato annunciato anche un servizio, una piattaforma di Gazzetta dello Sport, per esempio, che avrà tutti i video anime, quindi specializzato anche questo in abbonamento soltanto per tutti i cartoni animati giapponesi, per esempio. Quindi è una modalità che sicuramente prenderà piede, un po' sull'onda del successo di quello che abbiamo visto per i servizi analoghi, quindi anche qui, quindi subscription, ma non video, audio on demand. Sì, quindi Spotify, Deezer, tutti i servizi di streaming musicali che oramai stanno veramente prendendo piede proprio per la loro comodità. Pago un canone mensile e sento tutto. In questo caso pago un canone mensile e vedo tutto, però attenzione, solo il catalogo che ogni gestore ha. Esatto, mentre nel caso della musica il catalogo è praticamente sovrapponibile, cioè parliamo dei due player principali, Deezer e Spotify, hanno un catalogo che si assomiglia molto numericamente, e bene o male tutti gli artisti che hanno concesso le loro tracce in streaming le hanno concesse a entrambi i gestori, cosa non è per il video, che vive di esclusive storicamente, per cui quello che ha Sky Online non ha Infinity e non ha Netflix, e qui si apre tutto un altro tema. Ecco, ovviamente, a proposito di quello che si vede, è importante dire che tu hai citato alcuni player che sono già disponibili sul mercato italiano già da tempo, che sono simili, poi spieghiamo e raccontiamo quali sono le differenze. Un altro mondo sempre del video on demand è quello che è molto più simile al video noleggio, e qui citiamo Chili, Apple con l'Apple TV e tutta l'offerta di iTunes per i film, Google con Play Video. Ecco, lì stiamo parlando invece di titoli nuovi, appena usciti dal cinema, dal circuito del cinema, posso comprarli online. Eh sì, c'è una differenza fondamentale proprio nelle windows, nelle finestre di utilizzo di questi contenuti. Non c'è una legge, una normativa da questo punto di vista, c'è più una consuetudine. Il film esce al cinema, sta al cinema per un certo periodo, è protetto, diciamo, per le sale cinematografiche, dopodiché andava a suo tempo a noleggio prima e poi in vendita come supporto DVD. Nel mondo liquido, dematerializzato di internet, va prima in quello che si chiama transactional video on demand, quindi il video on demand dove viene acquistato il singolo contenuto, quindi diciamo il video noleggio virtuale sul singolo contenuto, e dopodiché addirittura va in TV, e dopo che è stato in TV free anche, e quindi pay TV e poi TV free, dopodiché entra nel circuito dei subscription video on demand. Quindi difficilmente un film cinematografico si trova velocemente su questi servizi. Non è un problema di Netflix, è un problema di tutti i diritti. Certo, Infinity, che è del gruppo Mediaset, può contare per esempio sul catalogo Medusa, che fa parte anche del gruppo Mediaset, per avere per esempio dei film anticipati, perché è un accordo intragruppo, mi viene da dire. Ma la normalità è che un film cinematografico arriva nei servizi di subscription video on demand solo dopo 6 o 7 anni che è stato in sala. Addirittura, sì, pazzesco. Quindi non è pensabile, a meno che e qui entriamo che. Poi anche nel merito della strategia di Netflix, a meno che uno se li produca da solo. È quello che fa Netflix, cioè per bypassare questo problema che si verificava anche negli Stati Uniti, non è un problema italiano, Netflix ha incominciato a produrre prima serial televisivi e poi addirittura ha prodotto un film. E addirittura, viene da dire, sta coproducendo Suburra, quindi ha coprodotto Suburra, quindi ha partecipato finanziando la produzione di Suburra e avrà il film Suburra e la serie Suburra. Quindi di fatto sui propri contenuti. Le novità non ci sono, ma per avere delle novità Netflix se le produce. Beh, basta pensare che già su Netflix in questo momento è possibile vedere un film, il primo film prodotto da Netflix che non è ancora uscito, è stato presentato sia a Venezia ma non è ancora uscito nelle sale cinematografiche. Chiunque anche facendo il mese di prova gratuito può vederlo stasera su Netflix. Quindi qui è il momento, se il distributore di contenuti entra nella catena produttiva si inverte, io devo dire anche finalmente per certi versi, il ciclo classico della pipeline cinematografica, per cui gli spettatori possono vedere il film subito, quando vogliono, così come i serial. Quello che ha portato, cioè la vera rivoluzione portata da Netflix negli Stati Uniti, per questo Netflix ha questa grande stima anche da parte degli appassionati, è il fatto di aver proposto per la prima volta, rompendo tutti gli schemi, un serial intero messo a disposizione tutta la stagione nella stessa data. Quindi chiunque poteva prendere e vedere tutte le 10 puntate o le 12 puntate di quella stagione in una notte, farsi una maratona e vedersela tutta, oppure cadenzarsela una ogni settimana, una quando poteva. Il che bypassa completamente la rigidità delle emittenti tradizionali che ne mandano in onda una o due puntate a settimana, sì, a un appuntamento preciso, che non è propriamente quello che fa più comodo al pubblico. È qui che il video on demand veramente prende piede. Per questo Netflix è molto forte sui serial, perché non c'è niente di peggio che finire una puntata molto avvincente di un serial e dover vedere, interrompere perché la puntata successiva andrà in onda settimana prossima. Certo. No, su Netflix posso, addirittura c'è la funzione che ti permette, se così è impostata, di farti partire l'episodio successivo alla fine di quello precedente. Quindi uno via l'altro. Ti fermi tu quando vuoi, anzi, consiglio mio, è molto più facile proprio per come sono scritti questi serial americani che ormai conosciamo, è molto più facile fermarsi a metà di una puntata che alla fine della puntata, perché alla fine della puntata è costruita proprio per farti voglia andare avanti. Certo. Quindi ci si ferma a metà e grazie a una funzione molto comoda di Netflix si riprende dal punto in cui si è abbandonato il contenuto. Allora, cioè sicuramente il sistema si ricorda dove siamo arrivati su qualsiasi device. Quindi finiamo. Spieghiamola questa. Stiamo vedendo un serial, guardiamo una puntata, arriviamo a metà della puntata, qualsiasi cosa, suona il telefono, non dobbiamo smettere, schiacciamo pausa, ci dimentichiamo addirittura, la prossima volta che ci collegheremo a Netflix con un altro account, da qualsiasi device, quindi non sul device sul quale stavamo guardando, ma qualsiasi device, il sistema si ricorderà dove eravamo arrivati e ci propone precisamente lo stesso contenuto nel punto dove l'abbiamo interrotto. Quindi io interrompo la visione di un telefilm, sì, esco di casa, vado sull'autobus o in metropolitana e continuo a vederlo dal tablet. Sì, assolutamente. Senza soluzione di continuità. Nel punto in cui è stato interrotto. Senti, ricordiamo che Netflix è nato nel 1995 come un servizio per distribuire sempre su abbonamento negli Stati Uniti, in località anche molto remote, DVD spedendole a casa dei consumatori. Sì, ma la logica era già questa. Era già questa, sì. Era già quella dell'abbonamento. Ti mandavano un gruppo 5 DVD, tu li potevi consumare, quando rispedivi indietro ti arrivavano i nuovi. Tu avevi la tua lista delle preferenze. Esatto. Non appena spedivi indietro uno, potevi anche tenerli sempre quei 5 fissi, certo, e pagare l'abbonamento solo per tenere quei 5. Ovviamente non avrebbe senso. Chiaro. Il gioco era farli ruotare il più possibile e con delle poste molto efficienti come quelle degli Stati Uniti, rimandando indietro un DVD o più di un DVD, te ne arrivavano altrettanti della tua lista, e così in rotazione. Quindi un Netflix, si chiamava già Netflix effettivamente, sì, un Netflix proprio come oggi, quindi su abbonamento guardi quanto riesci, quanto vuoi, un po' meno perché erano sempre limitato a questi 5 dischi, pagando un abbonamento mensile. Sì, la logica sì. era proprio questa. E a metà degli anni 2000, grosso modo, la rivoluzione del passaggio dal mondo DVD classico che conosciamo al mondo dello streaming è stato in parallelo, cioè man mano che sì, la banda sì, larga sì. si diffondeva anche negli Stati Uniti, hanno incominciato ad affiancare al servizio postale esatto, quello cioè. Telematico, e poi adesso sì. è chiaramente rimasto solo quello. Allora io ho detto che bisogna per completezza ricordare che servizi del genere esistono anche negli Stati Uniti, ne esistono, ma anche nel nostro paese, anche in Italia, quindi non stiamo parlando di un arrivo novità assoluta, però ci sono alcune caratteristiche particolari, magari anche su singoli punti non stiamo parlando di cose eccezionalmente nuove, ma fatte molto bene. Ma la cosa che sicuramente a me piace, ritengo che sia innovativa rispetto all'approccio di molti altri player, anche nei settori attigui, per esempio nella musica, è il fatto che l'abbonamento di Netflix è un abbonamento a carattere familiare. Cioè ogni account può associare, ogni account, quindi ogni abbonamento, può associare fino a 5 utenti. A cosa servono questi utenti? La prima cosa che qualsiasi applicazione di Netflix fa, sia che sia su TV, su tablet, eccetera, eccetera, chiede chi è che sta guardando. E ci sono i nomi dei familiari che al momento della registrazione è messo dentro e può anche cambiare. Questo lo fa perché lui vuole capire quali sono le abitudini di visione di ognuno per fare poi una serie di proposte sì. opportunamente profilate. È chiaro che se una famiglia intera, mamma, papà e bambino, vedessero col medesimo account, si mescola tutto, non si capisce più niente. Certo. In questo modo Netflix è molto attenta ai comportamenti, come tutte le brave net company, mi viene certo. a dire, molto attenta a profilare i comportamenti dei propri utenti. E l'atteggiamento, almeno la promessa, vediamo se sarà mantenuta, è quella che le acquisizioni dei nuovi contenuti per l'Italia seguirà in maniera assolutamente speculare i gusti che la gente esprimerà proprio con queste preferenze di utilizzo. Cioè se vengono visti in Italia più serial crime, tanto per intenderci, cercherà di acquisire nuovi contenuti crime con i diritti per l'Italia e così via. Quindi questi dati poi vengono utilizzati anche per infoltire il catalogo. Sì. Quando parliamo 2024 e magari uno fatica a capire che cosa i nostri esperti stanno dicendo, quando parliamo di big data, quando parliamo di business intelligence, business analytics, parliamo di queste cose. Assolutamente. Tanti dati raccolti che magari presi singolarmente o in piccoli gruppi significano poco, messi insieme, giustamente elaborati, diventano informazioni. Informazioni preziose, e Netflix è sicuramente molto brava, molto capace. C'è chi dice che Netflix è in realtà più che un'industria del video, un'industria di ingegneri che studia i comportamenti degli utenti. Dove si vede, ce lo hai già detto, cioè su smartphone, su televisore, cioè, ma che cosa ci vuole? Basta un banalissimo collegamento ad internet? Basta un collegamento ad internet, più veloce è, meglio è. Uno dei vantaggi di Netflix, anche altri player hanno sistemi simili, ma quello di Netflix è particolarmente solido, è il sistema di streaming adattativo. Quindi lo streaming valuta la banda che c'è e man mano, senza, in maniera totalmente continua, quindi senza creare né interruzioni né blocchi né salti temporali, aggiorna la qualità man mano che la banda migliora, o se la banda dovesse degradarsi per qualsiasi motivo, degrada leggermente la qualità ma non interrompe la visione. Uno degli aspetti che Netflix proprio propone come una propria differenziazione è il fatto di avere un play praticamente istantaneo. Infatti lo stream del film parte, del film o del serial, del telefilm, del documentario che stiamo vedendo, parte praticamente immediatamente, sì. magari a una qualità un pochino più bassa, e man mano che il sistema fa buffering, quindi mette da parte così un po' di dati in anticipo in modo tale da essere poi in grado di riprodurlo correttamente, migliora la sua qualità. Quindi uno può scegliere anche una qualità in maniera rigida, quindi cioè, voglio la qualità più alta possibile, però deve avere insomma una banda garantita, o se non ha una banda garantita, tipicamente uno potrebbe guardare anche mobilità usando il proprio piano dati, lì verrà magari i primi 6 secondi un po' più squarrettati, sì, e poi l'immagine prendere un dettaglio decisamente maggiore. La cosa interessante è che con un account, a seconda del tipo di abbonamento, 7,99, 9,99, 11,99, che sono i tre profili che ci sono, può vedere innanzitutto su tanti device, come dicevamo, ma anche più stream contemporanei. Quindi nell'abbonamento a 9,99, oltre a vedere i contenuti anche in alta definizione, quindi qualità fino all'alta definizione, si possono vedere su due device contemporaneamente due contenuti diversi, sì, quindi due familiari possono usare, certo, lo stesso, anche due amici. Ecco, questo sì, diciamo che non sarebbe corretto secondo le policy di Netflix, ma potenzialmente anche due amici, ovviamente. Sì, che quindi pagherebbero tipo la metà. Volendo, sì, certo. Sì, però non è corretto. Man mano che poi ci si piglia gusto e i familiari capiscono, la prima volta che ti viene voglia magari a una moglie, a un figlio di usare poi anche lui il suo Netflix, lo stesso account familiare per vedere qualcos'altro, poi si bloccherebbe una riproduzione magari, quindi sì, proprio due amici single, certo, forse sì, ma già due famiglie sarebbe più complicato. Allora, poi parliamo di qualità, sì, perché questo non riguarda solo Netflix, ma riguarda tutto il mondo dell'industria dello streaming. Ne abbiamo parlato per la musica, ma forse sull'audio ci sono meno persone che si accorgono della qualità non eccezionale dello streaming. Ecco, magari sul video, su alcuni tipi di profili di trasmissioni, forse c'è qualche ragionamento da fatto, però una curiosità, ci sono dei televisori con addirittura il telecomando Netflix. Sì, che beh, è incredibile, questo, no? Beh, è incredibile. Negli Stati Uniti, per esempio, ormai è già una realtà assodata. Tutti i TV praticamente hanno il telecomando col tasto Netflix. Che è una forma di pubblicità fantastica. È una forma di pubblicità fantastica, ma è anche segno di un dominio effettivamente molto importante del mercato, che fa anche discutere per certi versi. Perché il tasto di Netflix e non il tasto di Hulu, per esempio in Italia, di Hulu, oppure in Italia potremmo dire di Infinity piuttosto che sì, di Sky. Sì, beh, fa parte ovviamente degli accordi tra le aziende. Il fatto che Netflix ha veramente molti utenti negli Stati Uniti, decine di milioni, e quindi sì, è chiaro che questo diventa molto facile. Il tasto a cosa serve? Schiaccio il tasto e entro direttamente nell'applicazione Netflix senza fare nient'altro. È come se fosse una scorciatoia per andare direttamente all'app di Netflix. È chiaramente quando c'è un tasto rosso, che poi è rosso, certo, con scritto Netflix, bello grande, in mezzo al telecomando, è anche difficile resistergli. È quindi chiaro, prima o poi sì, il tuo mese di prova gratuita lo fai. In Italia ci sono televisori con il telecomando col tasto rosso? In Italia ci sono alcuni televisori che ce l'hanno, Philips, anzi ha fatto una bella pagina di pubblicità proprio sui quotidiani in questi giorni, per far sull'arrivo di Netflix, sul fatto che sui telecomandi Philips di quest'anno c'è il tasto Netflix. Un'altra curiosità, su alcuni smart TV uno accendeva fino a qualche giorno fa la piattaforma smart, quindi quella con le applicazioni, guardava in giro, c'era magari l'app Chili, che è abbastanza diffusa. Cioè, sì, quasi su tutti direi. Sì, sì, Chili tutti hanno fatto un buon lavoro, io sono un utente molto contento, sì, molto sì, soddisfatto, certo, anche perché ogni tanto compro un film, ma non so, l'abbonamento mensile non so se mi piacerà. Comunque, però non c'era quella di Netflix. Accendi il televisore oggi, a pochi giorni dall'arrivo di Netflix, e c'è l'app di Chili. Sì, allora alcune smart TV non hanno tutti i contenuti, come dire, le app caricate a bordo, ma si collegano a un portale, noi non ce ne accorgiamo, ma si collegano via internet quando andiamo nell'ambiente smart TV a un portale dove leggono le applicazioni che sono disponibili. È chiaro che Netflix fino a un giorno fa praticamente, finché non era disponibile in Italia, leggeva il fatto che l'IP, l'indirizzo IP era un IP italiano e non caricava l'app Netflix, perché non avrebbe potuto distribuire dei contenuti da questo punto di vista in Italia. Sì. Adesso che c'è, magicamente compare su tutti i TV e quindi e poi ovviamente c'è l'app su tutti gli store per i tablet e gli smartphone, che è sì, possibile scaricare. Sì. Molto, molto user friendly l'interfaccia, molto facile da usare, difficile non trovarsi a proprio agio. Un'altra cosa interessante è che non esiste, anche se Netflix è una multinazionale presente in tutte in molte nazioni, no? Ma non esiste un abbonamento a Netflix Italia oppure un abbonamento a Netflix USA. Uno è abbonato a Netflix Mondo. Sì. Quando è in Italia, siccome l'IP è italiano, naviga i contenuti per cui Netflix ha diritti in Italia. Se si trova a viaggiare negli Stati Uniti o in qualsiasi paese esso sia, vede i contenuti di quel paese. Sono tutti i contenuti di Netflix, sono laddove disponibili, ovviamente multilingua, sia nell'audio che nei sottotitoli, e questo è una cosa che sta entrando sempre più nelle abitudini degli utenti, magari vedere il film o il telefilm in lingua originale, aiutandosi sì, magari con i sottotitoli, e quindi proprio come con un DVD si può configurare al volo. Il vantaggio sì, rispetto ai DVD, e lo dico personalmente, io sono un grande cultore del DVD e dei Blu-ray soprattutto, che offrono un'altra definizione, è che io prima di vedere un film in DVD o in Blu-ray, di veder partire il film, normalmente impiego 3-4 minuti tra menu, trailer, sì, premesse, sì, sì, sì, sì, prima di arrivare a far partire, cioè, è più veloce il lo film. Streaming del no, del, Netflix ovviamente, oltre a non avere pubblicità, secondo me è abbastanza scontato, ma Netflix se ne fa un vanto, ma vabbè, allora, ci mancherebbe anche ci fosse la pubblicità. Quando io scelgo il film, parte il film, cioè, cioè... Allora parliamo di qualità, perché questo è un tema importante a proposito di tecnologia, ma si vede bene con lo streaming? Allora parliamo per esempio di contenuti in HD. Beh, no? Certo, no. Il resto il mio consiglio è: non prendete neanche in considerazione l'abbonamento a 7,99 solo in standard definition, andate su quello da 9,99, 2 euro al mese spesi benissimo per vedere in alta definizione. Allora, parlavamo prima di Blu-ray disc, io sono appassionato. Netflix non si vede come Blu-ray disc, si vede peggio. Perfetto. Ok, questo va chiarito in maniera evidente. Ma cioè, tutti non i servizi di streaming. Ma è naturale, perché la compressione che viene fatta su questi servizi e la banda disponibile non è la stessa cosa, non è sufficiente per avere lo stesso servizio che può darti un disco che gira in casa tua, che non ha bisogno di nessuna connessione particolare. Quindi il Blu-ray si vede meglio, e tra l'altro si vede in maniera garantita, cioè può sparire internet, certo, però si vede. Non è così per lo streaming, quindi chi ha un collegamento internet ballerino con la banda che va e viene, che viene condivisa, ecco perché a noi, penso di interpretare il tuo pensiero, non piacciono tanto le connessioni in banda ultra larga super condivise, quindi quelle che per esempio fanno arrivano con la fibra ma soltanto fino all'armadio e marciapiede. Noi vorremmo che la fibra arrivasse in tutte le case. Bravissimo. Per non avere limitazioni e strozzature, perché se tutti la sera, in un futuro magari prossimo, ci mettiamo a vedere Netflix o servizi simili, salta per aria tutto. Come è successo? Perché se vediamo i servizi anche diciamo di sul calcio adesso, che dove in streaming è possibile vedere sia con Sky che con Mediaset le partite, addirittura la federazione ha un servizio e fa vedere, certo, direttamente le partite, ecco, però si moltiplicano almeno per adesso le notizie di disservizi nel momento della messa in onda, perché una cosa è il subscription video on demand dove siamo tutti abbonati e io parto con un film, un altro parte con un film in un altro momento, eccetera eccetera. Una cosa è collegarsi in 100.000 vedere la partita in diretta tutti insieme. Sì. Allora, lo streaming non va bene per la diretta, non è il metodo migliore, almeno fino a che le reti non verranno progettate in maniera tale da gestire il multicast in maniera efficiente. Sì, sì. Certo. E quindi, detto questo sulla qualità. Detto questo, stante che non si vede come il Blu-ray, si vede molto bene. Devo dire che abbiamo fatto le prove anche col 4K, perché una cosa che non abbiamo detto è che nel catalogo di Netflix ci sono alcuni contenuti anche in 4K, per la gioia di chi ha già comprato un TV in 4K e non ci fa assolutamente niente. Certo. Per accedere ai contenuti in 4K serve l'abbonamento, quello un po' più costoso, evoluto, quello da 11,99, ma così si possono vedere i contenuti 4K. Attenzione, servono 25 megabit di banda, quindi fibra only, parliamoci chiaro, non si può sperare che con la DSL qualsiasi si riesca a vedere in 4K in maniera corretta. Il sistema, ovviamente, se non ha banda a sufficienza scala, e allora in quel caso si fa un abbonamento per vedere il 4K e lo si vede in 2K. E quindi non vale la pena. È vero è che l'abbonamento ad 11,99 offre anche 4 stream contemporanei, quindi per chi è in una famiglia numerosa e tante persone che usano lo stesso account, che condividono lo stesso account, conviene comunque sì. questo abbonamento, a prescindere dal fatto che poi vengano visti i contenuti in 4K. Anche con i contenuti in 4K la qualità è buona, non è un 4K vero come quello che vediamo nelle demo, nelle migliori demo. È un 4K streaming, certo. che quindi, pur richiedendo 25 megabit, è francamente sì. un po' compresso. Un occhio attento vede la compressione, però parliamoci chiaro, siamo anche nella nazione dove per anni sta la grande maggioranza della popolazione accontentata di vedere dei film pirata ripresi con una videocamera al cinema, no? Quindi quando parliamo di qualità tutto è relativo. Io certo, potrei certo. non essere soddisfatto della qualità, ma sono certo che la stragrande maggioranza della popolazione sarà più che soddisfatta. Io spero che ci pigli gusto e richieda poi sempre più una maggiore qualità agli spettacoli televisivi che vuole seguire. Molto bene, detto questo, la mia personale classifica è: prima, se possiamo e se potete, andate al cinema. Giusto. Che chiaramente richiede fatica, perché bisogna uscire di casa, insomma, bisogna un po' organizzarsi, costa un po' di più. Sì, quando le sale sono belle, perché qui dovremmo aprire tutto un altro sì, tema. Sì, lo facciamo presto. Continuo a vedere schermi sporchi. E allora piuttosto me ne sto certo, a casa, certo. Schermi sporchi, secondo, odore di popcorn. Secondo eccetera, in classifica eccetera. Il video noleggio, e vedo che stanno rinascendo, anche di questo parleremo, perché ci sono i Blu-ray certo. E poi lo streaming, che è sicuramente molto comodo. Grazie a Gianfranco Giardina, direttore del magazine dday.it. A presto Gianfranco. Grazie mille. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, potete contattarci scrivendoci a 2024, scritto in cifra 2024 e radio24.it. Adesso un altro pezzetto della nostra trasmissione, registrato e realizzato nel nostro studio a SMAO Milano questa settimana. In questo caso parliamo di e-commerce, un argomento molto interessante e soprattutto con una tecnologia molto interessante. Dico spesso che le migliori idee, non sempre, ma molto spesso, arrivano dalla scienza, dalla matematica, da algoritmi che poi trasformano alcuni servizi in cose molto semplici. Ma così come dietro a Netflix ci sono delle tecnologie di analisi dei dati, delle informazioni molto sofisticate, anche nella prossima intervista ascolteremo un servizio che risolve alcuni problemi dell'e-commerce in modo molto semplice, ma con una complessità alle spalle che noi naturalmente, fortunatamente, non vediamo. Siamo nel nostro studio a SMAO, che stiamo seguendo in questa settimana, con noi Antonio Perini, che è fondatore di Milkman. Benvenuto. Grazie, ciao Enrico. Tu sei stato in un altro studio di Radio 24 qualche anno fa, e vorrei partire proprio da qualche anno fa, anche per rispondere ad alcuni ascoltatori che ogni tanto scrivono e dicono: intervistate tante startup, ma poi di alcune non sappiamo più che fine fanno. Tu hai fondato Viamente, una società che poi è stata venduta negli Stati Uniti, hai passato qualche anno negli Stati Uniti a lavorare. Che cosa faceva o fa ancora, perché l'idea e l'algoritmo esiste ancora, che cosa? Certo, era un software per l'ottimizzazione dei percorsi per flotte di veicoli. Sostanzialmente hai 10 veicoli, 100 indirizzi, chi va dove nel rispetto dei vincoli logistici come capacità di carico, finestre temporali, eccetera. Ecco, questa era la domanda a cui quel software dava risposta in pochi secondi. Con molta matematica dietro o dentro. È la ricerca operativa, quella branca della matematica che si occupa di ottimizzazione. In breve, si tratta di ottenere il miglior piano possibile, sequenze, combinazioni, assegnamenti, che minimizza i costi logistici soddisfando la domanda. Questo software è stato acquistato da una società americana che lo usa proprio per il proprio business, giusto? Sì, certamente. Da allora il nostro mercato era cresciuto molto. Abbiamo dotato questo software, che si occupava di pianificazione in origine, di tutte le funzionalità di esecuzione, quindi dispatching, con una mobile app che quindi l'autista usa per sapere dove andare, e di tracking, che quindi permette all'ufficio di sapere l'evoluzione, lo stato, il progresso della giornata. Di seguire, tracciare il percorso della merce o del furgoncino che va sì, a fare. Abilitando poi ripianificazioni nel corso della giornata stessa. Oggi si parla molto di same day, è quello un classico esempio di una pianificazione estemporanea. Tu sei stato negli Stati Uniti, sì. Poi sei tornato, sì. Però non ti sei dimenticato quel con la tecnologia e quel mondo. Tu hai fondato recentemente Milkman, l'uomo del latte. Sì. Spieghiamo che non c'entra nulla col latte, ma prende spunto da un'operazione che l'uomo del latte fa tutte le volte che consegna il latte o che consegnava il latte, cioè la consegna a domicilio. Esatto. E che cosa questa società, questa startup nuova, che cosa vuol fare? Milkman.it è il sito di cui raccogliamo la nostra proposizione di valore, è una società che abilita le consegne a domicilio per fascia oraria ed ha un obiettivo sostanziale: aiutare l'e-commerce a vendere meglio, a vendere di più. Tutti noi quando acquistiamo online, vi sarà capitato forse anche a te Enrico, di incontrare la pagina finale d'acquisto, quella in cui bisogna confermare, abbiamo inserito i dati di fatturazione, i dati della carta di credito e quant'altro, e ci accorgiamo che la promessa è arriveremo fra 2 o 3 giorni. Sì. E spesso questo è incompatibile con la nostra vita, nel senso che io non sono a casa tutto il giorno. Anzi, ma... è uno dei motivi per cui io non acquisto online spesso, perché mi scontro con la disponibilità della consegna. Dico, ah ma no, fra 2 giorni di sicuro non sono a casa, fra 3 giorni chi lo sa se sono a casa e non so a che ora arrivano. Esatto, pensa che 1 su 2 abbandona il carrello per ragioni legate all'inadeguatezza delle opzioni di consegna. C'è chi oggi sperimenta molto sulla consegna molto reattiva, anche per stimolare l'acquisto di impulso, se vogliamo, ma quello è un nuovo mercato. Il mercato che esiste oggi è fatto di persone che si fermano e dicono ma ci penso, magari spedisco a mia suocera, però prima l'avviso. In quel momento il merchant ha perso un cliente. Un cliente, sì. E noi rimaniamo con la frustrazione di non poter avere quello che volevamo. Sì. Quello che Milkman abilita è sostanzialmente un'interazione diversa nella pagina di checkout dell'online shop. Si tratta sostanzialmente di selezionare le fasce orarie o le giornate in cui sappiamo che saremo disponibili. Per esempio, io potrei definire la mia esigenza di ricevere il pacco giovedì dopo le 3, perché so che dopo le 3 sarò in casa. Sì. O viceversa, dire qualcosa anche di più sofisticato: se vieni giovedì, vieni dopo le 3, venerdì anche tutto il giorno mi trovi a casa. Ecco, ogni volta che mi dai più flessibilità, io ho più opzioni, torniamo alla mente a quello che dicevamo poco fa, cioè il software di ottimizzazione dei percorsi, certo. Ho più opportunità di fare efficienze, di abbassare il costo marginale di quella consegna e premio il mio consumatore offrendogli uno sconto ulteriore rispetto allo standard. Uno potrebbe dire, vabbè, facile, no? Io definisco delle fasce orarie, per quelle fasce orarie metto prezzi di consegna diversi perché accontenti il consumatore che dice, perfetto, io invece di stare una giornata in casa ad aspettare il prodotto, so che alle 4:30 del pomeriggio arriva quel prodotto. Dici bene, tutt'altro che facile. Tutt'altro che facile, nel senso che fino a quello che ti ho raccontato abbiamo abilitato un ordine, solo che adesso dobbiamo consegnare secondo quanto abbiamo promesso, e questa è l'altra faccia della luna che Milkman interpreta, coordinando una rete di padroncini qualificati tramite un'integrazione del patrimonio IT, diciamo, della logistica, ovvero delle applicazioni mobili che i nostri padroncini usano per ricevere i percorsi dispacciati in un ordine tale da essere altamente compatibile e credibile e affidabile per riuscire a fare le consegne quando promesso, sostanzialmente. Certo, quindi ottimizzate il tutto in base a quante richieste ricevo, anche traffico e altre esigenze, immagino. Sì, sì. Assolutamente, noi consideriamo quanto i pattern di traffico impattino su certe zone e di conseguenza il nostro obiettivo è di pianificare in maniera più credibile possibile. L'intera operazione è fatta perché ci siamo accorti che oggi con i Corrieri Espressi l'esperienza della consegna è la parte forse meno gratificante per il consumatore finale, mentre il processo online si è ottimizzato negli ultimi anni in maniera meravigliosa, cioè tutto facile, tutto comprensibile. Poi spesso torniamo a casa e troviamo la cartolina dell'espressista che ci dice siamo passati, ma non c'era nessuno. E allora bisogna andare a ritirare il pacco, magari sì, lontano, sì, quant'altro. A volte questo purtroppo succede anche quando in realtà eravamo a casa. Il motivo è che la fretta, pur di stare nei tempi e nei costi, induce poi il padroncino a non trovare perdere il tempo troppo per tempo. Fermare. Sì, sì, sì. Allora l'operazione che stiamo facendo è trasformare quello che era un male necessario, cioè il last mile, il cosiddetto ultimo miglio, sì, in un servizio a valore aggiunto. E se guardiamo nel futuro dell'e-commerce, possiamo immaginare che quello che era un corriere, un driver, diventi una figura diversa, una figura che magari guidata dai dati dell'e-commerce, può anche offrirti un upselling, cioè prodotti che tu non hai richiesto ma che il servizio sa che ti potrebbero interessare, per come hai navigato nel sito, per l'analisi dei dati. Oggi se vendi scarpe lo sai che se consegni due paia di scarpe una ti torna indietro. Allora che cosa si sperimenta? Si sperimentano soluzioni in cui il corriere ti porta a casa le due paia di scarpe e poi aspetta che tu scelga quella che è il numero giusto o la sfumatura di colore giusto, perché venire due volte costa meno aspettare rispetto a tornare. Ah, certo. Allora capisci che il potenziale diventa trasformare quella fase non in una corsa contro il tempo, ti lancio il pacco e scappo, ma al contrario nell'unico vero punto di contatto fisico con il cliente finale. Sì. Che il brand deve monetizzare, deve valorizzare. Tu hai parlato di last mile, quindi l'ultimo miglio, che è proprio il luogo, chiamiamolo così, dove voi vi concentrate, cioè cercate di risolvere il problema della consegna, quindi dell'ultimo miglio. Oggi, giusto per completare il quadro, la soluzione al problema del non sono a casa il tal giorno e non so quando il corriere arriva, viene risolto facendo in modo che tu tra le opzioni che hai di consegna c'è magari invece che a casa tua presso un bar, ci sono delle reti, dei network, un bar oppure un altro esercizio commerciale magari aperto durante la giornata, io che ne so, alla fine della giornata di lavoro passo e ritiro il mio pacco. Oppure ci sono gli armadietti, i famosi locker, no? Che io a qualsiasi ora del giorno o della notte vado con un codice che mi viene spedito, ritiro la mia merce. Tu non pensi che queste possano essere delle soluzioni? Sono alternative? Penso che siano un perfetto complemento. Io credo che dovremmo organizzare il last mile per sperimentazioni che compendiano le une e le altre. Si parla di un mercato smisurato. Sì. E i consumatori vogliono gamma. Chi ha un e-commerce lo sa, tanto che fa trovare loro un numero di prodotti molto vasto. Perché non capire che lo stesso concetto vale per last mile? Io penso che in qualche caso, se risulti molto comodo farsi consegnare a un bar, a una tabaccheria, a una cartoleria sotto casa, in qualche caso il locker può essere la soluzione. Saranno i consumatori a decidere. Certo, i prezzi di consegna, perché a questo punto il vostro software suggerisce anche dei prezzi di consegna, non necessariamente gratuita la consegna secondo il vostro modello, perché tu dici ti do un servizio in più, cioè te lo consegno alle 4:30 precisa del pomeriggio, comunque in una fascia oraria piuttosto definita, quindi paghi di più. Sì, abbiamo analizzato il mercato che ci ha risposto a domande specifiche evidenziando due segmenti sostanziali. Un segmento, io lo chiamo premium, è fatto di persone che danno molto valore al loro tempo, sono meno sensibili al costo. Viceversa, un altro segmento ritiene che il denaro abbia un valore molto importante e quindi le loro decisioni sono guidate sostanzialmente da questi due driver molto diversi. Creare un bilanciamento tra l'utente premium che esige e domanda un servizio piuttosto sfidante per le operations, ma che può pagarlo di più, sì, ci permette di ridurre il costo per coloro che invece ci danno più flessibilità e diventa uno scambio. Alla fine dei conti qualsiasi mercato è fatto così, vuoi la fascia oraria più desiderabile? Beh, devi essere disposto a pagarla di più. Sono pochi magari quelli che si permettono questo lusso, tra virgolette, no? Bene. Tutti gli altri però godranno di questa economia. Ma quindi questo vuol dire che se io chiedo al sito internet, e poi vediamo quali siti internet utilizzeranno questo servizio, di avere la merce consegnata alle nostre famose 4:30 del pomeriggio, il software nel momento in cui ha saputo che ci sarà un furgone che passa alle 4:30 a casa mia, se uno prenota e dice le 5 non gli fai pagare niente? No, beh, questo non sarebbe giusto, non sarebbe corretto. Non vogliamo approfittare delle opportunità. Non è che fai pagare a uno per poi consegnare gratis agli altri. No, il software che calcola il prezzo di consegna è piuttosto sofisticato ed è guidato da diversi criteri. Uno di questi è l'analisi predittiva degli ordini. Quindi noi, quando tu fai un ordine, sappiamo già che ti possiamo fare un prezzo più basso perché prevediamo che arriveranno più ordini dal tuo territorio, dai tuoi vicini, per le stesse fasce orarie, o che arriveranno abbastanza ordini flessibili, quindi anytime li chiamiamo tra noi, nel senso che non hanno vincoli di carattere temporale, dalla tua zona. Quindi già a te, che sei il primo, offro uno sconto. Poi ci sono altri criteri guidati dall'analisi dell'allocazione corrente della flotta, semplicemente per rendere più facile la selezione. È lì che sta poi il nostro profitto, chiaramente. Certo. Nella capacità di individuare creare opportunità per noi, ma il modo in cui esponiamo il prezzo per la consegna al consumatore finale è molto semplice e sarà, a seconda della categoria merceologica, verosimilmente diviso in 2, 3, 4 possibili prezzi diversi per diverse, chiaramente la non fascia oraria di mezz'ora, sfumature, no, esatto, certo. No, anche perché vogliamo rendere la vita molto più facile, non più complessa. Ma perché non lo fa ancora nessuno? Perché ci sono dei player giganteschi che fanno un sacco di ricerca e però ancora non lo fanno. Ma i player sono efficientissimi e fenomenali, soprattutto nella gestione in grandi volumi, ma di quella che io chiamo la logistica di back-end, il traffico di linea, la gestione dei magazzini, cross-docking e via dicendo. Il last mile è sempre stato per loro un po' il necessary pain, cioè avendo i padroncini in strada significava abilitare i servizi logistici, anche quelli internazionali, non solo quelli nazionali. Però l'ultimo miglio è stato sempre un po' trascurato, nel senso che l'unica pressione era quella di ridurre i costi. La pressione di ridurre i costi, anziché di aumentare il valore, ha condotto poi a una situazione che funziona ancora, ma che rischia di collassare, perché l'e-commerce sta crescendo il 20% su base annua ormai da molti anni. Sì. E quindi non può sperare di acquistare in volumi pur di abbattere il costo di consegna, perché la logistica non è come il web. Certo, il costo marginale, non è che si abbassa. La benzina, lo stipendio della persona, l'ammortamento del veicolo, l'assicurazione, i rischi sulla strada, ecco, questi non si possono trascurare. Allora io credo che dovremmo guardare la last mile invece come una rivoluzione, un'opportunità per rendere i clienti più contenti. Un'analisi di mercato che abbiamo fatto ha rivelato che il 60% dei consumatori, se avesse un servizio di consegna per fascia oraria, comprerebbe più spesso o finalmente inizierebbe ad acquistare online. Ah, il certo. 60%. Questo vuol dire che c'è un mercato potenziale. Senti, ti faccio una domanda sulla possibilità che questa rete di padroncini, perché nel vostro modello c'è proprio una rete di freelance, chiamiamoli così, di padroncini che consegnano, quindi uscite dalla logica del corriere che è strutturato alla vecchia maniera, ok? È possibile che si riesca ad essere così efficienti con il vostro software, che è basato su algoritmi complessi, insomma una tecnologia molto robusta, che è poi lo stesso che tu hai venduto agli americani, che adesso compri di fatto, vero? Come sono diventato cliente del mio software. Esatto, che è bellissima questa storia, e che poi è diventato socio anche, cioè sei cliente ma loro hanno investito nella tua nuova startup. Sì, diciamo che in effetti il quadro è proprio quello, ecco. Oggi sono investitore nella mia nuova iniziativa e io godo di un 75% di sconto sul listino. Mi sembra interessante. Chiusa questa parentesi, dicevo, si può diventare così efficienti tali per cui io riesco a mettere insieme più prodotti di vari siti diversi? Sì, certamente. Perché io mi sono sempre chiesto, ma scusa, ma visto che il corriere arriva a casa mia per darmi le scarpe, ma perché non mi porta anche la frutta e la verdura che ho comprato dall'altro sito? Adesso ho fatto l'esempio della merce deperibile, che magari è un po' complicato, esatto. Insomma, il senso categorie è questo. Categorie diverse possono richiedere chiaramente flotte diverse e anche competenze diverse. Certo, cura diversa, Però sì, assolutamente. Già oggi per la verità i padroncini lo fanno, a patto che appunto la merce sia di carattere omogeneo. La mia visione di lungo termine però è quella di avere un servizio per i consumatori, non per l'online shop. Oggi il mio cliente è l'e-commerce, sì, che integra le mie soluzioni pur di rendere facile la vita al suo consumatore. Un domani mi piacerebbe avere una Milkman Prime, un abbonamento con cui tu ti garantisci per esempio una consegna alla settimana e di consolidare tutti gli acquisti che ti vengono in mente man mano che vivi la tua vita, no? Li aggiungi in modo tale da essere molto virtuoso sull'impatto che la logistica ha sulle nostre vite, perché ricordiamoci che noi dobbiamo anche risolvere un problema che è il traffico, noi tutti, non Milkman, chiaramente. Però l'idea è cerchiamo di dare urgenza laddove è necessaria e cerchiamo invece di premiare la flessibilità. Un esempio tipico di questo bilancio è che chi vuole il prodotto subito può averlo subito per esempio con un servizio di same day, chiaramente lo pagherà magari un po' di più di un servizio tradizionale, ma c'è anche chi dice, e questo Amazon l'ha già capito negli Stati Uniti con l'opzione no rush, ma vieni quando ti pare, purché tu venga prima di giovedì prossimo, per esempio. Sì. Questo significa che mentre normalmente il negozio online ti offre una consegna gratuita, nel senso che sono loro a sussidiarla a patto che tu raggiunga certi limiti di soglie di acquisto, significa che l'e-commerce ti potrà offrire degli sconti sui prossimi acquisti, perché più flessibilità mi dai e più io sarò efficiente. I matematici sono gli unici che possono dire più ottimo in strada, nel senso che ovviamente approfitterò delle opportunità che abbatteranno emissioni, traffico e rischi. Tu hai fatto una startup, l'hai venduta agli americani, sei andata negli Stati Uniti, poi sei tornato indietro a fare startup in Italia. Sì. E noi in questi giorni di Smau abbiamo detto, o meglio, gli esperti che io ho intervistato hanno detto: però in Italia si fa fatica, poca finanza, poca maturità del mercato, regole ancora complicate. Tu sei matto? Io apprezzo tantissimo, io sono per l'Italia, io penso e ritengo, ma molti me lo confermano, che noi siamo bravissimi e qui e poi si sta anche molto bene nel nostro paese, insomma io tifo molto per l'Italia, però i problemi ci sono e non ci dobbiamo nascondere dietro. Ma io credo che sì, la risposta facile alla tua domanda sul perché sono tornato per fare impresa in Italia sia che sono italiano. La risposta un po' più articolata è questa: io credo che l'Italia abbia delle risorse che non si trovano altrove. Per esempio, parlavamo prima dei modelli matematici, della capacità di scrivere software di processamento dell'informazione, non semplicemente di trasmissione. Ecco, io personalmente ho trovato dei talenti incredibili in Italia. Gli americani sono fortissimi su certi settori, per esempio la finanza. Ho visto come opera l'azienda che mi aveva acquistato e mi sono reso conto che con la capacità e anche la capacità di rischiare, di gestire bene il patrimonio di liquidità che loro hanno, si può crescere molto molto velocemente, cosa a cui noi non siamo abituati. Sì. Però ho menzionato un'altra parola magica, che è la liquidità. Là è facile entrare in banca e ottenere, ma nel giro di veramente poco tempo, addirittura entrare in un negozio, ti offrono la carta di credito del negozio, cioè ti offrono di spendere i soldi che non hai. Sì, sì. Da tanto è facile ottenere liquidità. E quindi è una competenza che noi non possiamo probabilmente sperare di avere o di ottenere in breve. Però poi ovviamente siamo più forti nel quello che loro chiamano il problem solving. Per noi è semplicemente essere normali, esattamente. Invece c'è l'esperto di problem solving che fa un po' ridere. Allora c'è, diciamo, una posizione privilegiata di chi vuole fare impresa oggi ed è a metà. Sì. Cioè, possiamo anche immaginarci collaborare con gli americani, che sono un mercato fenomenale e che capiscono dove sta l'innovazione e la tecnologia, lo capiscono bene. Quando abbiamo venduto ovviamente è stato perché loro avevano bisogno di una soluzione e sono venuti fino in Italia a cercarne una che ritenevano buona. Non si fermano davanti a niente, questo sono, certo, sono fantastici, perché sono molto umili e loro le valutano tutte. Le soluzioni. Quando vedremo la tua applicazione, il servizio Milkman su un sito internet concreto di e-commerce? Lo vedremo nel primo trimestre del 2016, ancora non posso svelare i nomi di chi ci ospiterà nella loro pagina di checkout, ma diciamo che l'obiettivo del 2016 è selezionare un massimo di 3-4, perché vogliamo mettere a punto un modello operativo. Sì, sì, sì. Mm. E come dicevamo, implicitamente ci limitiamo a lavorare su Milano nel 2016. Io credo che Milano possa e debba diventare un modello di riferimento per tutta la sperimentazione last mile, perché c'è un'abitudine al consumo online e perché ci sono le imprese che fanno e che adottano innovazione. Perché consideriamo che rispetto a una startup come per esempio poteva essere Viamente, che era puro web, la logistica implica una serie di difficoltà nello scalare, no? Nel crescere, e di conseguenza i modelli devono essere messi a punto per bene e per ridurre l'esposizione al rischio finanziario è chiaro che bisogna indirizzare una cella geografica ben definita. Chiaro, in quel caso lì dentro si può bene. Allora a quel punto poi si può crescere. In bocca al lupo. Crepi. A presto. Grazie. Ciao Rico. E come sempre grazie per la vostra attenzione. Questa è la versione podcast di 2024. Fateci pubblicità, dite ai vostri amici, ai vostri parenti, ai politici locali, beh anche quelli nazionali, ma magari sono meno facili da raggiungere, di ascoltare 2024, non tanto per quello che dico io, ma per quello che dicono i nostri ospiti. E io penso che la maggior parte, tutti i nostri ospiti siano di livello molto alto e siano tutte voci autorevoli nel loro campo, e quindi insomma sia utile ascoltarli per imparare e anche per confrontare i propri punti di vista. Torniamo la prossima settimana. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Potete scrivere per qualsiasi ragione, purtroppo non sempre riesco a rispondere, in alcuni casi le risposte o sono impossibili oppure sono molto complicate, richiedono magari anche un po' di lavoro, perché ci sono alcuni nostri ascoltatori che chiedono proprio informazioni, quasi che siano delle consulenze su cose di tecnologia, insomma non è sempre facile e semplice rispondere, soprattutto non c'è sempre il tempo purtroppo. Bene, torniamo la prossima settimana e il venerdì alle 22 o la domenica alle 13.30, oppure se siete abituati al podcast, qui quando volete. 2024. 2024. 2024. 31 seconds.